24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 16 minuti e 30 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 21 maggio. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, buongiorno Maria Latella, ciao Maria. Ciao, ciao Simone, buongiorno. Beh, cominciamo con un sorriso, perché se i quotidiani italiani e anche i sindaci e i presidenti di regione mettono il dito nella piaga dell'aperitivo serale, perché c'è il rischio che appunto il contagio torni e torni massicciamente. Sì, però non chiamiamolo piaga, Maria, dai. Non sì. Chiamiamolo piaga. No, va bene, quello dai. Che è. Daily Telegraph mette in prima pagina oggi una bellissima foto della spiaggia di Bournemouth, dove si accalcano centinaia di persone, giocano ovviamente, si tirano gli schizzi d'acqua, il tutto con dei poliziotti con la ovviamente mascherina d'ordinanza che tentano di bloccarli. Credo che sia impossibile. Quando il tempo diventa bello, in Inghilterra, così come sui navigli o sui nostri lungomari, sarà una dura battaglia tenere a distanza la gente, che però insomma il senso di responsabilità da qualche parte lo dovrà pur trovare. Se quindi l'Inghilterra, nelle rare giornate di sole che ora, di cui ora dispone, ha lo stesso problema che abbiamo noi in Italia sugli aperitivi serali, e beh, un'altra notizia invece molto meno, come dire, da malcomune mezzo gaudio arriva dalla prima pagina delle Figaro, che apre, il titolo di apertura è sulla casa automobilistica Renault, il primo shock sociale dopo la crisi sanitaria, perché Renault ha annunciato che vuole chiudere 3 siti e probabilmente comincerà una lunga e dura battaglia con i sindacati. E questo, sì, diciamo, non c'è dubbio, perché tra l'altro Renault ha chiesto uno dei prestiti garantiti dallo Stato, se non vado errato, per 4-5 miliardi, se non vado errato, e quindi ci sarà, sì, da discutere, si anche una dura da battaglia anche da quelle parti, ci sarà sicuramente da discutere. Allora, di cosa tratteremo oggi? Parleremo innanzitutto delle questioni europee, come sapete la grande partita aperta sul famoso Recovery Fund, ossia il fondo sul quale hanno trovato un accordo Francia e Germania nelle scorse ore, al quale si oppongono tutta una serie di altri paesi del nord, a partire dall'Austria passando per l'Olanda. Poi andremo in questo primo giorno, tra l'altro, di riapertura di bar e via dicendo, a Napoli dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, e infine chiuderemo con Christian Solinas, il presidente sardo, su questa questione del passaporto sanitario per arrivare in Sardegna. Buongiorno Enzo Amendola, ministro agli affari europei, bentornato, eccoci. Grazie, buongiorno a voi. Maria, prego. Buongiorno ministro. Buongiorno. Allora, il punto è quello che non possiamo nasconderci. Ci sono 4 paesi, Austria, Olanda, Danimarca e Svezia, ma anche l'Ungheria di Orban e la Polonia, che teme di perdere parte dei fondi europei, e questi 4 paesi sono contrari alla proposta franco-tedesca di Recovery Fund, a parte il fatto che i 500 miliardi non sono ancora sicuri. Le chiedo, ci faccia capire se l'Italia, con la sola forza degli altri paesi, dalla Spagna ad altri che contano però relativamente meno di quanto non conti la Francia, ecco, l'Italia che margini di trattativa ha? Oggi i giornali riferiscono che il Premier Conte ha parlato con la Merkel, che gli ha fatto presente che i 500 miliardi dell'accordo proposto da Macron e Merkel non sono un punto di partenza, semmai sarebbero un punto di arrivo. Ma se i soldi europei tardano ad arrivare, tutto quello che è rimettere in moto l'economia italiana si ferma. Al di là di, come dire, al di là delle richieste da questo o da quel partito o da questa o quella categoria imprenditoriale, possono pure chiedere ci serve di più, ma senza i soldi europei non arriva né di più né di meno. Beh, se mi permette una battuta, 20 giorni fa uno dei refrain più famosi era l'Europa ci ha abbandonato. Adesso il tema è ovviamente quando arriveranno queste risorse che sono sul tavolo, perché stiamo ai fatti. La BCE ha un programma fortissimo di sostegno sui mercati, la Commissione ha fatto delle scelte importanti, patto di stabilità, aiuti di Stato, e adesso oltre a Shore che abbiamo già approvato, 100 miliardi per la cassa integrazione, oltre alla linea di credito del MES per la sanità, oltre a un fondo della BEI per le piccole e medie imprese, dobbiamo chiudere a giugno un accordo sul bilancio europeo e questo famoso recovery fund. Quindi sul tavolo, rispetto a un mese fa, abbiamo molte cose su cui essere contenti, contenti perché significa che l'Europa sta reagendo in maniera coordinata e unitaria. Ora il 27 la Commissione presenterà la proposta, che sarà il punto di partenza del negoziato, che vogliamo chiudere a giugno, e c'è un accordo largo che anche il documento franco-tedesco sottolinea, che ovviamente questo accordo significa che gli anticipi delle risorse devono partire subito, non possiamo aspettare gennaio 2021. Quindi sul tavolo abbiamo già molti strumenti di politica fiscale, quelli già attivati e altri che dobbiamo chiudere. Certo, come in tutti i negoziati non è facile mettere 27 interessi nazionali d'accordo, però questo contributo franco-tedesco apre la via a scelte coraggiose, perché si parla finalmente di sussidi, non di prestiti, si parla cioè di un fondo per la ripresa che insieme a altri investimenti, linee di credito agevolate, altri programmi europei può arrivare, come ha detto anche il commissario Gentiloni, a muovere ingenti risorse. Io credo che, se la interrompo, lei giustamente dice si parla di sussidi e non di prestiti, che è esattamente il punto che il cancelliere austriaco Kurz e con lui anche Mark Rutte, il premier olandese, non intende far passare. Vogliono dei prestiti e non proposta. Io la loro proposta non l'ho ancora vista. Io ho parlato con il ministro degli esteri olandese, stiamo in contatto con tutti i paesi, anche perché lei citava Ungheria, Polonia, oggi parlerò con il mio omologo polacco, lì ci sono differenti sensazioni, sono legati ai fondi coesione, ma i fondi coesione verranno anzi confermati nel bilancio con regole nuove, noi stiamo già utilizzando fondi coesione rimanenti del vecchio bilancio, addirittura senza le regole di cofinanziamento, grazie alla Commissione che ha liberato molti di questi fondi velocemente, quindi con molta flessibilità. Quelli che sono i dubbi dei frugali, come vengono definiti, e la rappresentazione nord contro sud, onestamente, scusate, ma ha un po' stancato, perché non c'è questo dibattito, c'è un dibattito su come costruire un fondo, come farlo, perché la proposta franco-tedesca che era quella dell'Italia e degli altri nove, cioè di fare un ricorso al mercato, quindi qui c'è il vero passo avanti che si è fatto nelle ultime settimane, cioè sì, questi titoli verranno recepiti i soldi con titoli a debito sul mercato, che è una cosa importante, perché lei si ricorda è un debito europeo, debito europeo che è il grande, perché è il grande passo avanti di Angela Merkel, il grande passo avanti di Angela Merkel, sì, no? da Jacques Delors stiamo discutendo di queste cose, non si sono mai fatte, quindi abbiamo una strada nuova, vedremo con i frugali quali sono le loro posizioni, perché al momento, al di là di dichiarazioni che secondo me valgono molto per l'opinione pubblica nazionale, io proposte non ne ho viste, in base a quello continueremo a negoziare, ma il punto di partenza sarà la proposta della Commissione il 27 maggio. Amendola, ha l'impressione che in questa trattativa con i cosiddetti frugali possa entrare altro, ossia che non sia un caso il fatto che ieri il cancelliere tedesco Sebastian Kurz abbia detto in questa situazione epidemiologica noi i confini con l'Italia non li apriamo, e quindi no, anche questa questione, la questione del turismo, la questione dell'apertura dei confini entrino in questo gioco? No, su questo no, perché c'è un coordinamento oramai guidato dalla Commissione per una riapertura che sia comune. Ieri il ministro Franceschini ha fatto una riunione con i ministri del turismo. Scusi, cancelliere austriaco naturalmente, non tedesco, ma ci siamo capiti, insomma, prego. Ma c'è un lavoro comune per riaprire dagli inizi di giugno, come faremo in Italia, in maniera coordinata, senza accordi bilaterali, tutte le frontiere interne a Schengen. Per quanto riguarda le frontiere esterne invece... Questa chiusura austriaca è un problema però, Amendola? Guardi, su noi con l'Austria la libera circolazione delle merci è tutto stato garantito all'inizio. Per quanto riguarda invece il turismo, il cancelliere sa meglio di me che c'è una grande voglia d'Italia. I numeri del turismo dall'Austria verso l'Italia sono ingenti, quindi quando riapriremo in maniera tutta coordinata da giugno in poi vedremo come farlo e come farlo tutti insieme, quindi io non mi preoccupo di questo. Quello che, su cui vorrei riflettere con i cosiddetti frugali è come diamo vita a una risposta coordinata contro la recessione economica. E la recessione non è italiano-spagnola, ma è dei 27, perché l'industria europea si lega nelle catene logistiche tra Austria, Italia e Germania, si lega nella manifattura che oramai è completamente interconnessa. Quindi noi non chiediamo qualcosa per un singolo paese, noi vogliamo salvare il mercato europeo, che se si squilibra e si ha dei livelli di diseguaglianza interna rischia di non essere più forte, competitivo e reggere l'urto della recessione. Quindi il ragionamento che facciamo con loro non è solo di interesse nazionale di un singolo paese, ma di interesse comune europeo, e su questo vedremo come raggiungere un altro compromesso. A proposito di interesse comune europeo, come diceva poco fa il nostro direttore Fabio Tamburini, è importante anche che si metta dell'ordine sulle differenze fiscali dei vari paesi. Assolutamente. Cito l'Olanda, ma ne ha parlato anche Gentiloni nel suo intervento di ieri. Ci può dire concretamente che cosa significa diciamo la presa di posizione europea ieri rispetto a questi paesi, da Olanda a Cipro? Beh, non si regge più un sistema fiscale comune europeo dove le basi di prelievo fiscale siano così disarmoniche, ci sono livelli che non reggono più perché questa crisi poi ci sta costringendo tutti a fare delle scelte importanti. Anche nel documento franco-tedesco, e questa è una vera novità anche per la Germania, si chiede un'armonizzazione, una base minima di prelievo fiscale che non faccia una competizione sleale all'interno dell'Europa. E questo è un tema su cui discutere con i frugali. Così come sarà importante discutere con i frugali quando parleremo di bilancio, per esempio dei cosiddetti rebate. Noi nella proposta di bilancio vecchia c'era l'idea di fare dei ristori, così come si faceva per il Regno Unito per alcuni paesi. Io credo che queste siano cose da superare. Quindi alcune inefficienze del meccanismo di integrazione fiscale europea vanno superate. Ecco, quando si dice sussidi non prestiti, quando si dice bisogna fare così, io metto sul tavolo tutto e noi nel negoziato metteremo sul tavolo tutto, anche questo, perché sono inefficienze che producono degli squilibri interni che sono insopportabili. Ministro, non le sarà sfuggito quello di cui da due giorni scrive il quotidiano Avvenire in un'inchiesta insieme al Guardian sul tema di Malta e dei migranti, ossia le notizie a questo punto confermate da una serie di prove documentali e video di barconi che arrivano in acque territoriali maltesi e che le forze dell'ordine maltesi respingono in acque territoriali italiane o addirittura libiche. Avete intenzione di intervenire su questo oppure no? Guardi, su questo io non guido il dossier, quello che stiamo facendo sì. A livello europeo. Sì, però è una questione europea, è una questione seria, no? E infatti le stavo dicendo proprio su questo con la commissaria Johansson e col vice presidente Schinas, il ministro Lamorgese sta guidando questo negoziato, stiamo chiudendo un accordo, stiamo lavorando per un nuovo accordo europeo sull'immigrazione. Era tempo, si era bloccato anche per le resistenze dei paesi dell'est, una gestione comune alle frontiere, e questo era una priorità di questa commissione ed è confermata. Come giudica da ministro degli affari europei l'azione di Malta, se insomma fosse provata? Beh, è un'azione che non è coordinata con i partner, noi siamo su una frontiera evidente esterna, noi la Grecia, Malta, la Spagna, dobbiamo chiedere un comune sistema europeo di gestione dei flussi e anche della gestione dell'immigrazione che viene dall'Africa, ma si deve fare in maniera coordinata e solidale, assolutamente. Maria, hai altre domande per il ministro? Sì, ho un'altra domanda che non riguarda l'Europa, ma i fatti di casa nostra. Va bene, ieri è andata in onda quella che molti hanno definito una sceneggiata, due mozioni che dicevano l'una il contrario dell'altro contro Bonafede, poi il ministro è rimasto lì. Ora, le chiedo, in molti, anche all'interno del suo partito, il Partito Democratico, si chiedono fino a quando il PD potrà fare la parte del partito col senso di responsabilità, mentre il governo oscilla e in qualche modo Conte è anche costretto a tenere conto delle richieste che arrivano, per esempio in questo caso da Italia Viva, qualche mese fa dal Movimento 5 Stelle, promesse di presidenze di commissioni, presidenze di Agicom, eccetera. Qual è la convenienza del Partito Democratico a stare in un governo? Certo, in questa fase è impossibile pensare ad elezioni anticipate, ma non teme che per il suo partito alla lunga il senso di responsabilità possa diventare un boomerang? Ma guardi, noi abbiamo un difetto purtroppo, che il senso di responsabilità lo calibriamo sempre dinanzi all'interesse generale del paese. Fu la scelta che facemmo a settembre, quando facemmo questa alleanza abbastanza anomala tra partiti concorrenti, per essere diplomatico, negli ultimi anni, perché l'Italia non poteva rimanere bloccata sulle spiagge del Papete. E dopo, prima e dopo questo coronavirus, è evidente che la responsabilità che abbiamo per in un periodo di così forte recessione, con la coesione sociale che è una delle priorità, il rilancio dell'economia e della base industriale del paese, la nostra responsabilità primaria è una tradizione che noi intendiamo così, siamo fatti forse male, ma per noi viene prima l'interesse generale del paese. Ovvio che è una coalizione con differenti punti di vista su vari temi, dalla giustizia al mondo della scuola, al rilancio economico, ma credo che proprio perché viviamo questo tempo senza precedenti, bisogna lavorare coesi, uniti, anche negoziare a livello europeo, e serve unità e coesione per questo, e riuscire a portare il paese unito fuori da questa recessione. Grazie Enzo Amendola, ministro degli affari europei. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Una pausa e poi parliamo con Luigi De Magistris. Mattino. Ed eccoci di nuovo, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, buongiorno. Ha preso il caffè al bar stamattina, che sono riaperti se non sbaglio, no? Sì, sono riaperti già da un po', almeno quello da prendere all'esterno, da oggi si può anche entrare, buongiorno, e quindi Napoli non può ripartire senza caffè. L'ha preso il caffè o no? No. Sì, no. Ah, benissimo, ottimo, ottimo. Anche due magari. Noi andremo a numeri importanti, insomma, certo. Durante la giornata. Sì, ma il caffè napoletano è una delle gioie della vita. Senta, sindaco, posso cominciare con una domanda che non riguarda la sua, diciamo, il suo ruolo di sindaco, ma il suo passato di magistrato, perché le cronache di questi giorni, dalle intercettazioni che appunto riguardano l'ex presidente del CSM Palamara, alle polemiche che hanno portato poi a due mozioni di sfiducia al ministro Bonafede, fino poi a quanto è accaduto al procuratore di Taranto, insomma, c'è materiale per fare una riflessione sulla magistratura. Ora, lei l'ha lasciata, no? La magistratura circa 10 anni fa, dopo aver svolto inchieste su rapporti anche che vedevano magistrati e politici interconnessi. E quando qualche tempo fa il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha arrestato 334 persone in Calabria, incluso un politico che lei aveva indagato, disse: provo una certa amarezza. Visto che il magistrato non lo fa più, che cosa sta succedendo nella magistratura? Viene fuori quello che si sapeva da sempre, o c'è stato un peggioramento della situazione? Ma la ringrazio molto di questa domanda, e consideratemi sempre disponibile, perché sono un testimone e ho pagato il prezzo più alto per aver investigato proprio su quel sistema criminale di collusioni pericolosissime tra pezzi significativi di magistratura, politica, nel caso mio ovviamente affari, 'ndrangheta e massonerie deviate, e i nomi sono purtroppo anche gli stessi in parte. Palamara era presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati insieme a Cascini nel 2007-2008, quindi parliamo di 13 anni fa, quando coraggiosi magistrati di Salerno, indagando sulle plurime denunce che erano state fatte nei miei confronti, scoprirono che non solo avevo agito con massima correttezza, ma che ero vittima di un sistema di interferenze illecite di gravissimo spessore, Palamara disse: il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi. Bene, forse aveva ragione il sistema. E oggi leggo che Palamara, Cascini, cenacoli, incontri, si decidevano e si spartivano procuratori della Repubblica, incarichi direttivi, e così condizionano i procedimenti disciplinari. E questo è il patto tra politica e magistratura, quello sotterraneo, di cui vittima sono i magistrati autonomi, indipendenti, indipendenti verso la politica e indipendenti verso le appartenenze interne alla magistratura. Il termine nostri, che si leggeva in questi giorni, nostri è un termine mafioso, non può appartenere all'ordine giudiziario. A chi appartieni sei dei nostri. Chi vince il concorso in magistratura deve applicare l'articolo 3, uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, lo deve fare con autonomia e indipendenza che la Costituzione garantisce ai magistrati, non per vendersi la toga da una parte, ma per garantire allo stesso modo la persona povera e la persona ricca. Quindi sta venendo fuori, ma come sempre, se posso aggiungere un secondo, guardate, io ho iniziato a entrare in magistratura avendo Falcone e Borsellino, no, come esempi. Borsellino, pochi giorni dopo la strage di Capaci, che ricorderemo tra qualche ora, tra qualche giorno, disse che probabilmente i principali responsabili della morte di Falcone stavano anche dentro la magistratura. Parliamo del 92. Poi tantissimi altri episodi. Sì. La mia vicenda, che è inquietante, che ne potrei parlare quanto volete, per arrivare ad oggi. Quindi viene fuori quello che è il sistema, il cittadino a questo punto che sta in mezzo, è chiaro che rimane sì, sconfortato. Sì, De Magistris, c'è anche la perplessità, le confesso, una mia perplessità personale, già per il fatto che esistano delle correnti nella magistratura e su questa base si realizzino delle spartizioni e su questa base no, si decidano i ruoli all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, che poi è l'organo di autogoverno. Capisce? Di fronte a tutto questo lo guardiamo da cittadini con una certa, no, con una certa perplessità. Se non appartieni non ti salvi nel processo disciplinare, se non appartieni a una corrente non arriverai mai a fare il procuratore della Repubblica, il procuratore nazionale antimafia, il presidente del tribunale. Poi loro, quando glielo chiedi, dicono: beh, ma le correnti nascono, ed è vero, come pluralismo di opinioni all'interno della magistratura, e quello potrebbe essere, come dire, aree di pensiero, perché anche all'interno della magistratura non è che ognuno tiene giustamente, meno male, la stessa testa, ognuno ha il proprio profilo culturale, filosofico, anche di politica con la P maiuscola, ma altra cosa se invece tu devi appartenere per fare carriera o per essere protetto se fai qualcosa di negativo oppure se ti devono colpire. Io per esempio rimasi isolato perché ero non solo estraneo a qualsiasi ambiente esterno alla magistratura, ma avendo indagato sui magistrati, questo non me l'hanno mai perdonato, e loro non solo dicevano, come dire, non solo non volevano che uscissero fuori le cose, ma non volevano nemmeno lavare i panni sporchi in famiglia, perché quando io segnalai tutto al CSM, la coltellata finale me l'ha data proprio quel CSM che ha citato lei, che è un organo, come dice la Costituzione, di autogoverno della magistratura, e invece vedete che cosa è diventato. Basta vedere la cronaca di questi giorni, per non parlare della mia vicenda, e può sembrare altrettanto, ma se volete io sarò sempre a disposizione. Senta, De Magistris, l'ultima cosa che le voglio chiedere, poi invece passiamo ai temi che riguardano il suo lavoro di sindaco. Allora, per capire come nulla è cambiato dai suoi tempi, evidentemente, no? Cito il caso di Fulvio Baldi, l'ex capo di gabinetto del guardasigilli di Bonafede, che si è dimesso dopo la pubblicazione di alcune chat sempre con Luca Palamara. Ora dovrebbe rientrare nello stesso ruolo di sostituto procuratore generale alla Procura Generale della Cassazione. Nino Di Matteo, consigliere del CSM, ha chiesto che si rinvii questa decisione. Ha fatto bene? Ha fatto male? Questo è un altro tema. Gli spostamenti, no, dei magistrati che dalla magistratura ordinaria vanno a ricoprire incarichi di vicinanza al ministro, ma rifanno il capo di gabinetto del ministro, poi tornano, quindi appartengono a una certa area, poi diventano, vanno ai vertici di determinati uffici giudiziari. Pensi un po' che il mio procuratore generale, dico tra virgolette, quello che chiese la mia condanna disciplinare, poi rientrato in magistratura, era stato per molto tempo presidente di una determinata regione, apparteneva in maniera stretta a un partito politico ed era molto vicino a tante persone che io avevo indagato, che poi sono stati tra quelli che mi hanno fermato. Guardate, i nomi poi sono usciti tutti, questo è incredibile perché il tempo in qualche modo è galantuomo, quindi anche in tutte queste inchieste, Riccardo Fuzzo, ve lo ricordate il procuratore generale della Cassazione nelle carte dell'inchiesta di Perugia? Bene, era uno dei magistrati della Procura Generale della Cassazione che lavorò in qualche modo sui profili disciplinari dei magistrati di Salerno e poi furono fatti fuori solo perché erano dei magistrati galantuomo, tutti stanno uscendo. Adesso il nuovo capo del DAP, no, mi pare che Petralia, dopo che è andato via Basentini, non avendo messo Di Matteo, datelo a vedere, stava nel CSM nel 2007-2008 quando le mie vicende andarono al CSM, dove il CSM sapeva chi erano i corrotti e chi erano gli onesti, prese l'onesto e lo buttò fuori dalla Calabria e lasciò i corrotti in Calabria. I nomi sono sempre stessi, sono passati 13 anni, ma è incredibile, stanno sempre là. Allora, non ci conforta. Allora, devo dire la verità, voi mi fate una domanda, una persona che dice, perché poi me li fanno pagare queste cose che dico, attenzione, allora, io nella mia vita mi sono difeso, uscendone sempre bene, in 100 procedimenti penali, civili, amministrativi, disciplinari. E disciplinari. Allora, De Magistris, guardi, la richiameremo, ci torneremo su questo tema. La richiameremo. Napoli, come sta ripartendo, come sta reagendo, come stanno andando le cose? Beh, la ripartenza, chiamiamola così, la fase centrale della fase 2 è complicata. Da oggi, come ricordavate voi, dovrebbero riaprire, ma molti non apriranno ancora, ristoranti, trattorie, pizzerie, è dura. Molte saracinesche non si alzano, chiaramente la situazione economica complicata, il governo arriva con una lentezza, non arriva per nulla a dare liquidità, quindi è una situazione difficile, però la città, come voi sapete, è una città forte, che ha tante relazioni di solidarietà, molta creatività, cioè noi stiamo preparandoci. Il governo sta reagendo e sta agendo male, De Magistris, secondo lei? Sì, io sono molto deluso, lentezza, assenza di visione, promesse e impegni traditi, penso quelli dei comuni per esempio, dove non arriva nulla, se non arriva ai comuni non arrivano ai servizi, perché noi non incassiamo più nulla e l'Italia come riparte se non mette in moto i servizi, non arriva la cassa integrazione che era stata promessa da mesi, arriva pochissima liquidità, altri invece stanno immettendo liquidità ed è la criminalità, sta mettendo molta liquidità e sta già operando da sud a nord del nostro paese, questo è evidente, ma anche questo viene sottovalutato. Però Napoli, La ministra Lamorgese non lo sottovaluta per niente, perché c'è un costante appello appunto a monitorare. Non credo che la ministra Lamorgese possa essere accusata di non tenere sotto controllo la situazione. Assolutamente. Poi, certo, no. La criminalità organizzata opera da alcune decine di anni, quindi il tema sicuramente sussiste. Concordo con lei, il ministro ha una tale esperienza, competenza e sensibilità che non metto in dubbio, anche le sue circolari sono molto efficaci, però la mia esperienza mi dice che se nel portare liquidità a chi è rimasto senza soldi, vuoi il cittadino che non ha il piatto di pasta, vuoi l'esercizio commerciale che non alza la saracinesca, se la criminalità arriva prima dello Stato, lo Stato è molto lento, si possono fare tutte le circolari che vogliono, ma poi quello che serve è iniettare risorse, iniettare liquidità e in questo il governo è molto lento. Poi noi a Napoli, devo dire, stiamo preparando una grande ripartenza, non è che ci facciamo fiaccare da un governo lento. Ci ha raggiunto Cristian Solinas, che è il presidente della Sardegna. Presidente, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Cos'è questa storia del passaporto sanitario? Ma guardi, la Sardegna ha avuto fortunatamente una gestione delle curve di contagio efficiente, per cui è la regione con la più bassa circolazione e arriveremo in qualche giorno ad essere completamente Covid-free. possiamo quindi offrire a tutti i turisti la possibilità di arrivare ad una destinazione sicura. Per mantenerla sicura chiediamo una piccola cautela in più, e cioè di poter certificare la propria condizione di negatività al virus in maniera tale che quando si arrivi in Sardegna si possa fare una vacanza degna di tale nome, perché se tutti quelli che entrano nell'isola e quelli che già ci stanno sono Covid free, è chiaro che si possono affievolire una serie di misure che altrimenti dovrebbero stare in piedi come in tutto il resto del paese. Tenga presente che non si tratta di una cosa isolata. Questo sta già accadendo nelle Canarie, che hanno fatto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, del turismo, e il 1° luglio partirà il primo volo con passaporto sanitario. Analoghi accordi stanno facendo le Baleari con la Germania per un corridoio che preveda l'arrivo di turisti tedeschi con charter sui quali salgano soltanto pazienti o passeggeri, meglio, con positività negata e quindi con un tampone negativo. Questo aiuterebbe di gran lunga a dare affidabilità, a dare sicurezza a tutti i cittadini che decidano di fare una vacanza in questo periodo, che arrivando nella destinazione Sardegna non ci sia né la possibilità di contagiarsi né tutte quelle limitazioni alla vacanza che la renderebbero sicuramente molto diversa da quelle che si sono conosciute in passato. Mi scusi, Presidente, per essere chiari, allora io vado in una struttura per lo più privata, perché immagino che sia più rapida, pago dai 25 ai 100 euro per fare o il test sierologico oppure il tampone, mi faccio rilasciare un certificato che attesti che non sono portatrice del contagio o che sono comunque immune, e con questo certificato mi presento alla biglietteria dei traghetti o alla biglietteria dell'aeroporto. A chi lo devo far vedere? Chi controllerà che io abbia questo certificato? Come farete? Perché arrivano migliaia di turisti in Sardegna, sì, come fate a controllare tutto? Ha perfettamente ragione, Milioni. È un documento che verrà controllato all'imbarco, esattamente come controllano la carta d'imbarco, il documento d'identità, e ci sarà anche questo certificato. Quindi nessun aggravio di procedure, nessuna burocrazia in più, e per di più vorrei dire che questi costi non saranno a carico del turista. La Regione Sardegna, in accordo con la Federalberghi regionale, restituirà l'importo speso per effettuare questo test in servizi alberghieri, o qualora i turisti non vadano in un albergo lo daremo in servizi regionali, che possono andare dall'accesso gratuito a siti regionali sino a dei bonus per l'acquisizione di prodotti tipici locali. Senta, De Magistris, le sembra una buona idea, posto che a Napoli sarà difficile da attuare una cosa di questo genere, perché è terraferma, insomma, quindi no, un po' è continente, come dicono in Sardegna, insomma, e quindi è un po' più difficile. Ma la visione e la linea di indirizzo è quella buona, nel senso che soprattutto nelle zone dove c'è stato un contagio basso, diciamo nel sud e nel centro-sud e nelle isole del nostro paese, anche noi stiamo lavorando in questa direzione, per esempio collegamenti diretti aerei Napoli con città del mondo in cui c'è stato un basso contagio, con garanzie del tampone effettuato, tampone negativo. Il turismo in questi anni è stata la parte centrale insieme alla cultura di Napoli, quindi da là si deve ripartire. Chiaro, non avremo subito i numeri di qualche mese fa, ma anche noi stiamo lavorando per creare un villaggio vacanze Napoli sicuro, insomma, punto di vista sanitario e attrattivo da un punto di vista della location. Non male, un villaggio vacanze Napoli sicuro non è male, non è ci male. Fa venire voglia subito di venirci. Ma infatti vi aspetto, è chiaro, Napoli, cioè, è bella di per sé, poi noi cercheremo di metterci il massimo, chiaramente. Senta, Solinas, Presidente Solinas, c'è un grande tema delle spiagge libere, no? E sarà molto difficile controllare la situazione, perché non è che i comuni possono piazzare un vigile su ogni bagnasciuga. Prima ho parlato della fotografia che apre il Daily Telegraph, il quotidiano britannico oggi, dove c'è questa grandissima spiaggia di Bournemouth e migliaia di persone che si accalcano in spiaggia e un poliziotto con la mascherina che cerca di frenarli. Voi come vi regolerete? Allora, noi puntiamo molto sul senso di responsabilità che hanno dimostrato i sardi in tutta questa fase di emergenza. hanno rispettato misure anche molto dure ma necessarie per preservare la salute pubblica, e quindi punteremo molto sulla comunicazione e sulla responsabilizzazione dei cittadini. Al netto di questo, contiamo che, avendo esaurito nei prossimi giorni il numero di positivi presenti sull'isola, e se funzionerà il filtro in accesso di nuovi positivi, alcune limitazioni potranno sicuramente essere leggermente affievolite. Dall'altro lato è chiaro che dobbiamo mettere su un sistema di controlli che, più che repressivo, sia educativo, nel senso delle buone pratiche che si devono tenere nell'interesse di tutti. Faremo dei protocolli con i diversi comuni, perché è chiaro che questa responsabilità non può essere scaricata sugli enti locali, c'è bisogno di una collaborazione tra tutte le istituzioni, pensiamo di coinvolgere anche grossa parte del volontariato della regione, perché ci sia un ordinato afflusso alle spiagge. Naturalmente tutto questo non deve pregiudicare un concetto cardine per noi, che è quello che la spiaggia libera e pubblica deve rimanere gratuita. Grazie a Cristian Solinas, presidente della Sardegna, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, per essere stati con noi. Alla prossima, naturalmente. Buona giornata, Maria. Buona giornata a voi. Ci risentiamo domani mattina alle 8:20 con te, Maria, naturalmente, con tutti gli altri ascoltatori. Domani mattina alle 6:30, Peter Bescape in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, il resto della squadra, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo. Grazie a tutti, a domani. Ciao.